c'è un altro viaggio in macchina che mi ricordo sempre, che mi racconta il marito di mia sorella, cioè mio cognato, che ha chiesto un passaggio una volta da Pavia per venire a Milano. Si è fermato una Croma. Ci sarà ancora, c'è ancora la Croma, no? Sì, la Fiat l'ha rifatta, ha avuto questo coraggio. Un tizio con una Croma che si ferma e parla poco l'italiano, li carica lui e il suo amico, e questo parte verso Milano e va veloce, molto veloce verso Milano, al punto che loro gli dicono: guarda, noi non è che abbiamo fretta. E poi a un certo punto nello specchietto retrovisore spunta la luce di una macchina della polizia, una sirena si avvicina, accosta, questo sbanda, finisce fuori dalla strada, la polizia lo ferma e lui aveva rubato una macchina. Da allora mio cognato alla fedina penale sporca, perché è accusato di furto d'auto, ovviamente, perché era in auto con un ladro. Ecco, questa, diciamo, quel viaggio in auto è stato breve, ma lui se lo ricorda molto bene.